Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Non dimenticherò mai la meraviglia di Sir Charles Lyndon quando, una sera d'estate, mentre lui usciva come sempre nella sua portantina per raggiungere il tavolo da gioco, il calesse a quattro di sua signoria, preceduto dai lacchè a cavallo, nella livrea fulva della famiglia Lyndon, entrò nel cortile della casa. In quella carrozza, al fianco di sua signoria, sedeva niente di meno che il volgare avventuriero irlandese, come lei si era compiaciuta di chiamarlo, voglio dire, il gentiluomo Redmond Barry. Sir Charles fece il suo inchino più cortese, sogghignò e sventolò il cappello nel modo più aggraziato che la sua gotta gli permetteva, e da parte nostra, sua signoria e io, rispondemmo ai saluti con la massima correttezza ed eleganza. Poi non potei tornare subito al tavolo da gioco, perché Lady Lyndon e io fummo impegnati in una discussione sulla transustanziazione che durò 3 ore. Come al solito ne uscì vittoriosa, mentre la sua compagna, l'onorevole Miss Flint Skinner, si addormentò. Ma quando finalmente raggiunsi Sir Charles al circolo, lui mi accolse con una risata simile a un urlo e mi presentò a tutta la compagnia come l'interessante giovane convertito di Lady Lyndon. Era il suo modo di fare. Rideva di tutto, si prendeva gioco di tutto. Rideva quando era in un parossismo di dolore. Rideva quando vinceva denaro e anche quando ne perdeva. La sua risata non era gioviale o gradevole, ma penosa e sardonica. «Signori», disse a Panther, al colonnello Loder e a vari altri tipi conviviali con cui era solito sistemare una bottiglia di champagne e un paio di trotelle del Reno dopo il gioco, «guardate, questo amabile giovanotto è stato tormentato da scrupoli religiosi ed è corso a cercar rifugio dal mio cappellano, Mr. Runt, che ha chiesto consiglio a mia moglie, Lady Lyndon. E tra tutti e due stanno riuscendo a confermare nella sua fede il mio giovane e ingegnoso amico. Avete mai sentito di simili dottori e di un tale discepolo?» «Diamine, signore», dissi io. «Se voglio imparare dei buoni principi, per averne, faccio sicuramente meglio a rivolgermi a vostra moglie e al vostro cappellano che non a voi.» «Vuole infilarsi i miei stivali», continuò il cavaliere. «Felice l'uomo che ci riuscirà», risposi, «purché non ci trovi dentro la gotta». A Sir Charles questa risposta non andò molto giù, credo, e lui riattaccò con più rancore. Era sempre molto schietto quando aveva bevuto un bicchiere di troppo, e a dir la verità, quel bicchiere lo beveva molte volte alla settimana, più di quante gliene concedessero i dottori. «Non è forse un piacere, signori», disse, «per me, che mi sto avvicinando alla meta estrema, vedere la mia casa tanto felice, mia moglie tanto affezionata a me, che già da ora pensi a nominare un successore. Non parlo di voi in particolare, Mr. Barry. Voi state solo cogliendo l'occasione insieme a decine di altri che potrei elencarvi. Non è una consolazione vederla prepararsi come una prudente donna di casa alla partenza di suo marito?» «Spero che non stiate pensando di lasciarci presto, cavaliere», dissi io, ed ero del tutto sincero. Lui mi piaceva. Era un compagno divertentissimo. «Diamine, amico. Mi hanno dato per spacciato un'infinità di volte negli ultimi 4 anni e c'erano sempre un paio di candidati in attesa di far domanda per il mio posto. Chissà quanto potrei tenervi in attesa». E in effetti mi tenne in attesa per un tempo un po' più lungo di quanto allora non avessi ragione di sospettare. Ho espresso le mie intenzioni matrimoniali molto apertamente, come sono solito fare, e dato che gli autori in genere forniscono una descrizione delle signore di cui i loro eroi si innamorano, anch'io, in omaggio a quest'uso, dovrei forse dire una parola o due sulle attrattive di Milady Lyndon. Ma benché io le abbia celebrate in molte pagine di versi miei e altrui, e abbia riempito risme di carta, elogiando nello stile appassionato dell'epoca ogni sua grazia e ogni suo sorriso, e paragonandola a ogni fiore, dea o celebre eroina che si sia mai sentita, devo dire che in lei non c'era proprio nulla di divino. Era molto soddisfacente, ma nulla di più. Le sue forme erano eleganti, i capelli scuri, gli occhi non male e molto vivaci. Adorava cantare, ma lo faceva come si conviene a una gran dama, cioè con stonature terribili. Aveva un'infarinatura di una mezza dozzina di lingue moderne e anche, come ho già detto, di molte più scienze di quante io ne conoscessi anche solo di nome. Si piccava di sapere il greco e il latino, ma in realtà era Mr. Rant a fornirle le citazioni che la inseriva nella sua voluminosa corrispondenza. Aveva un immenso desiderio di essere ammirata, una vanità fortissima e nervosa e una dose minima di cuore, come non ne ho mai viste in nessuna donna. Se non fosse stato così, come si spiegherebbe che quando suo figlio Lord Ballingdon, a causa dei suoi contrasti con me, fuggì e... Ma questa faccenda verrà raccontata a tempo debito. Per finire, Milady Lyndon aveva, rispetto a me, circa un anno in più, anche se naturalmente avrebbe giurato sulla Bibbia di averne 3 in meno. Pochi uomini sono onesti quanto me, perché pochi sono disposti ad ammettere i veri motivi delle loro azioni, mentre a me non me ne importava un fico secco di confessare i miei. Ciò che diceva Sir Charles Lyndon era perfettamente vero. Avevo fatto la conoscenza di Lady Lyndon con dei secondi fini. «Signore», gli dissi, quando, dopo la scena descritta prima, in cui mi aveva tanto preso in giro, ci trovammo da soli. «Ride bene chi ride ultimo. Qualche sera fa voi vi siete divertito a mie spese e a spese delle mie intenzioni nei confronti di vostra moglie. Bene, se anche sono davvero quello che dite, se davvero voglio infilarmi i vostri stivali, con questo le mie intenzioni, un tempo, erano le vostre. Giuro che saprò trattare Lady Lyndon per lo meno con tutti i riguardi che voi le avete mostrato finora. E se quando voi sarete morto e sepolto, io me la piglio e me la tengo, perbacco, cavaliere, credete che sarà la paura del vostro spettro a farmi cambiare idea?» Lyndon si mise a ridere come al solito, ma era un po' sconcertato. Avevo avuto senz'altro la meglio su di lui nella discussione e avevo il diritto di dar la caccia alla mia fortuna tanto quanto lui. Ma un giorno mi disse: «Se sposate una donna come Milady Lyndon, sentitemi bene, ve ne pentirete, rimpiangerete amaramente la libertà di cui godevate prima». «Diavolo, capitano Barry!» aggiunse con un sospiro. «La cosa che più rimpiango nella mia vita, forse perché sono vecchio, blasé e moribondo, è di non aver mai avuto un amore sincero!» «La figlia del lattaio!» dissi io, ridendo di quell'assurdità. «E perché non la figlia del lattaio? Amico mio, io sono stato innamorato da giovane, come accade a quasi tutti i gentiluomini. Era la figlia del mio istitutore, Elena, una ragazzona vigorosa, naturalmente più vecchia di me. Questo mi ricordò i miei piccoli viavai amorosi con Nora Brady nei giorni della mia prima giovinezza. E sapete, signore, che rimpiango di cuore di non averla sposata. Non c'è niente di meglio che avere in casa una donna onesta e sgobbona, signore, potete starne certo. È una cosa che dà sapore ai piaceri della vita di mondo, parola mia. Nessun uomo sensato sente l'obbligo di porsi dei limiti o di negarsi anche un solo svago per amore di sua moglie. Al contrario, se sceglie l'animale con cura, ne prenderà uno che non sarà un ostacolo ai suoi piaceri, ma un conforto nei momenti di irritazione. Io, per esempio, ho la gotta. E chi mi cura? Un lacchè pagato che mi deruba ogni volta che può. Mia moglie non mi viene mai vicino. Che amici ho io? Nemmeno uno. Gli uomini di mondo come voi e me non fanno mai davvero amicizia. Se ci proviamo, perdiamo tempo e cervello. Fatevi un amico, signore, e che questo amico sia una donna, una buona casalinga sgobbona che vi ama. È quello il genere di amicizia più prezioso. Sir Charles, con il suo ginepraio di malattie, ci stava morendo davanti, goccia a goccia, e senza dubbio non poteva essere molto piacevole per lui vedere un bel giovanotto fare la corte alla vedova, praticamente sotto il suo naso. Una volta entrato in casa, grazie alla disputa sulla religione, trovai una dozzina d'altre occasioni per approfondire la nostra intimità e finì per non uscire quasi mai dall'appartamento di sua signoria. Nel bel mondo si chiacchierava, ci si indignava, ma a me che poteva importarmene? Gli uomini se la prendono con l'impudente avventuriero irlandese, ma ho già spiegato il mio sistema per chiudere la bocca a questi invidiosi, e la mia spada si era ormai fatta una tale reputazione in tutta Europa che ben pochi ci tenevano a incontrarla di persona. Una volta occupata una posizione, io me la tengo. Sono molte le case in cui sono entrato solo per accorgermi che gli uomini mi evitavano. Ah, quel volgare irlandese, dicevano, quel rozzo avventuriero, andiamo via, c'è quell'insopportabile imbroglione. Quest'odio mi ha reso servizi non indifferenti nel mondo, perché quando metto le mani su qualcuno, nulla può indurmi a mollare la presa, e se mi lasciano a me stesso, tanto meglio. Come scrissi a Lady Lyndon in quei giorni, con perfetta sincerità, Calista, la chiamavo Calista nelle mie lettere, Calista, io ti giuro, per l'immacolato candore della tua anima, per lo splendore dei tuoi occhi inesorabili, per tutto ciò che di puro e casto v'è nel cielo e nel tuo cuore, che io non cesserò mai di seguirti. Il disprezzo posso sopportarlo, l'ho sopportato dalle tue mani, l'indifferenza posso valicarla, è una roccia che la mia energia ascenderà, un magnete che attrae l'impavido ferro dell'anima mia. Ed era vero. Non l'avrei mai lasciata, no, neppure se mi avessero cacciato a calci giù per le scale ogni volta che mi presentavo alla sua porta. È questo il mio modo di affascinare le donne. Che ogni uomo che deve far fortuna nella vita ricordi questa massima. Attaccare è il suo solo segreto. Osa! E il mondo ti si arrenderà sempre, o se qualche volta ti batte, osa di nuovo e soccomberà. In quei giorni il mio spirito era tanto risoluto che se mi fossi messo in testa di sposare una principessa del sangue, l'avrei avuta. Raccontai a Calista la mia storia, alterando solo in minima parte la verità. Il mio scopo era di spaventarla, di mostrarle che ciò che volevo, io l'osavo, e ciò che osavo, riuscivo a compierlo. E nella mia storia ce n'erano abbastanza di episodi impressionanti da convincerla della mia volontà di ferro e del mio coraggio indomito. «Non sperate di potermi mai fuggire, signora», le dicevo. «Accettate di sposare un altro uomo e lui muore sulla mia spada, che finora non ha trovato l'uguale». Sfuggitemi e vi seguirò, fosse anche oltre le porte dell'Ade. Vi assicuro che questo era un linguaggio ben diverso da quello che si era abituata a udire dai suoi adoratori, sempre agghindati e profumati. Avreste dovuto vedere come li spaventavo, non si facevano più vedere attorno a lei. quando affermai così energicamente che avrei seguito Lady Lyndon attraverso lo Stige, se necessario, io volevo dire, naturalmente, che l'avrei fatto soltanto se nel frattempo non si fosse presentato nulla di più conveniente. Ma se Lyndon non si decideva a morire, a cosa mi serviva dar la caccia alla contessa? E non so bene come, verso la fine della stagione, a Spa, il cavaliere, per me, fu una grande mortificazione, devo confessarlo. Si riprese di nuovo. Sembrava che nulla potesse ucciderlo. «Mi dispiace per voi, capitano Barry», diceva con la sua solita risata. «Sono dolente di farvi aspettare, voi o qualsiasi altro gentiluomo. Non sarebbe meglio per voi combinare qualcosa insieme al mio dottore? O convincere il cuoco a insaporirmi l'omelette con dell'arsenico?» «Signori», aggiungeva, «quante probabilità ci sono che io non viva abbastanza da vedere il capitano Barry impiccato?» Effettivamente i dottori riuscirono a rabberciare Sir Charles per un altro anno. «È la mia solita sfortuna», non potei fare a meno di dire a mio zio, che era un eccezionale confidente e consigliere in tutte le mie faccende di cuore. «Ho sprecato tesori d'affetto con quella civetta della contessa. Ed eccoti qui, suo marito, rimesso a nuovo, capace di campare chissà quanti anni ancora». E come per accrescere la mia mortificazione, proprio in quel periodo vennero a Spa l'erede di un candelaio inglese, con una fortuna di 100.000 sterline, e Madame Cornu, vedova di un mercante di bestiame normanno, con l'idropisia e 200.000 tornesi all'anno. «A che serve che io segua i Lyndon in Inghilterra?» dissi, «se il cavaliere non si decide a morire». «E tu non seguirli, mio caro ingenuo ragazzo», rispose mio zio. «Fermati qui e fa la corte alle nuove arrivate». «Sì, e così perdo Calista per sempre e con lei il più grande patrimonio di tutta l'Inghilterra». «Calma, calma. I giovani come te sono facili a infiammarsi e facili a scoraggiarsi. Tieniti in corrispondenza con Lady Lyndon. Lo sai che non c'è nulla che le piaccia tanto. Hai quell'abate irlandese che ti scriverà delle letterine veramente incantevoli a una corona luna. Lasciala partire, scrivile, e intanto vedi se te ne capita qualcun'altra. Chi lo sa? Potresti sposare la vedova normanna, seppellirla, prenderti il suo denaro e trovarti pronto per la contessa prima che le muoia il cavaliere». E così promisi a Lady Lyndon il mio più profondo e rispettoso affetto. Diedi 20 luigi per una sua ciocca alla cameriera, cosa di cui, naturalmente, lei informò subito la sua padrona. E quando per la contessa Lyndon divenne necessario far ritorno ai suoi possedimenti in Inghilterra, presi congedo da lei, giurando che l'avrei seguita non appena regolata una certa questione d'onore che avevo per le mani. Tralascerò gli avvenimenti dell'anno che trascorse prima che io la rivedessi. Mi scrisse, come aveva promesso, ben prima con molta regolarità, poi un po' meno spesso. Intanto i miei affari al tavolo da gioco non andavano troppo male ed ero proprio sul punto di sposare la vedova Cornu. Ora ci trovavamo a Bruxelles e quella povera creatura era pazzamente innamorata di me, quando qualcuno mi passò una copia della London Gazette e lessi il seguente annuncio: «Deceduto a Castle Lyndon, nel Regno d'Irlanda, il molto onorevole Sir Charles Lyndon, cavaliere dell'Ordine del Bagno, deputato di Lyndon nel Devonshire e per molti anni rappresentante di Sua Maestà presso varie corti europee, lascia dietro di sé un nome diletto a tutti i suoi amici per le sue numerose virtù e i suoi molteplici talenti, una reputazione meritevolmente acquisita al servizio di Sua Maestà e una vedova inconsolabile che lamenta la sua perdita. Sua Signoria, l'orbata contessa di Lyndon, si trovava a Bath quando l'ha raggiunta la terribile notizia della dipartita di suo marito e si è affrettata a recarsi in Irlanda per compiere tristemente gli estremi doveri verso le adorate spoglie. Quella sera stessa feci preparare la mia carrozza